Video game. Un nuovo appuntamento con il mondo dei videogiochi comincia adesso, ma come sempre si inizia con la soluzione del gioco della settimana scorsa che vi permette di portarvi a casa un buono da 300 euro. Per sconfiggere il mostro di fine livello dovete come sempre superare i primi due livelli. Ecco quindi le risposte della settimana scorsa. Livello 1. La preposizione che accompagna. La risposta era con. Livello 2. È famoso a Milano quello intestato a Vittorio Emanuele. In questo caso la risposta era corso e mettendo insieme le due parole si ottiene concorso. Il mostro di fine livello chiedeva: mostro di fine livello. Quelli di quel tipo sono pubblicati sulla Gazzetta. La risposta era pubblico. Complimenti a Paolo di Monza che si porta a casa un buono da 300 euro. Ma a questo punto è il momento del gioco di questa settimana. Come sempre dovete risolvere i due livelli per sconfiggere il mostro di fine livello e avere quindi la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. Per il primo che indovina c'è un buono da 300 euro da spendere in qualunque punto vendita Troni. E fate molta attenzione perché oggi arrivare alla soluzione sarà particolarmente difficile. Livello 1. Cono senza fine. Dopo i pranzi pasquali mi è sembrato giusto dedicare un po' di tempo alla forma fisica e così voglio parlarvi di un titolo che inaspettatamente ha raggiunto le vette delle classifiche inglesi dei giochi più venduti per Xbox 360 e fra pochi giorni sarà disponibile anche per PlayStation 3 e per Wii. Ehi ehi ehi, pa' mi gente che sta nel party con Zumba. Yeah. Zumba Fitness è stato uno dei primi giochi non prodotti da Microsoft a fare la sua comparsa dall'avvento di Kinect. Se non avete ancora sentito parlare di Zumba Fitness, siete tra i pochi e la nostra Deborah Rosciani potrebbe darvi qualche lezione. Con più di 10 milioni di partecipanti in 110 paesi diversi, ogni settimana Zumba è il programma di fitness che aiuta le persone a mantenersi in forma con movimenti di danza aerobica miscelati al ritmo della musica latina. In Zumba Fitness i giocatori possono imparare e perfezionare 9 diversi stili di danza: reggaeton, merengue, salsa, cumbia, conga hip hop, mambo, rumba, danza del ventre e calypso. Il gioco propone 30 pezzi musicali, alcuni in esclusiva per il gioco, presentati dal creatore del programma Zumba Beto e dalle istruttrici di successo Gina Grant e Tania Bersley. Zumba Fitness ovviamente è accessibile a tutti grazie alla modalità Impara i passi. For each Learn the Step lesson, I'll be breaking down the steps for you. As you master each part of the step, we'll spice up the moves a bit while the music gets faster and more dynamic. Hey, hey, hey, pa' mi gente che sta nel party. Il titolo non è stato localizzato in italiano, purtroppo, forse perché non ci si aspettava una risposta di pubblico così elevata. Ma capire cosa vi viene insegnato è facile, anche perché ci sono i movimenti dell'istruttrice da vedere e da copiare. Ma prima di iniziare a zumbare sul serio, ecco il secondo livello del gioco che vi fa portare a casa un buono da 300 euro da spendere in qualunque punto vendita Troni. Livello 2. Per Tesla non era continua. Torniamo a parlare di Zumba Fitness. Ehi ehi ehi, pa' mi gente che sta nel party. Nel gioco si possono impostare diversi livelli di sfida, da esordiente a esperto, in 5 ambientazioni differenti. A ogni passo di danza ben eseguito, l'intera pista da ballo si trasforma in un vero e proprio party, con effetti speciali e ballerini scatenati. I partecipanti inoltre possono organizzare dei veri e propri fitness party a casa, coinvolgendo fino a 4 giocatori, oppure unirsi ai party online fino a 8 giocatori tramite PlayStation Network o Xbox Live. Looking good. And that's the Calypso. Zumba Fitness è divertente se vi piace mantenervi in forma ballando e onestamente fa venire il fiatone, come si addice a qualunque movimento aerobico. Tutte e tre le versioni del titolo permettono di giocare liberamente. Kinect per Xbox 360 non prevede controller e grazie al sensore che inquadra il corpo intero vengono monitorati i movimenti di gambe, braccia e bacino. Mentre le versioni di Wii e PlayStation Move vengono vendute con un'esclusiva cintura Zumba Fitness che registra con precisione solo i movimenti del bacino dei giocatori. The next step for Calypso is a single double pump. Let's go. E prima di passare alla classifica dei giochi più venduti della settimana, ecco la terza parte del nostro gioco. Il mostro di fine livello da sconfiggere con la risposta giusta alla domanda che sto per farvi. Chi invierà la risposta corretta per primo si porterà a casa un buono da 300 euro da spendere in qualunque punto vendita Troni. La risposta a videogiochi@radio24.it. Mostro di fine livello. è stato il più popolare negli anni 70. E adesso la classifica. Nessuna variazione dalla scorsa settimana, forse a causa delle feste. Quinto posto per il gioco da affrontare in compagnia e re di tutte le classifiche, We Party. Quarto posto per la simulazione di calcio che continua ad appassionare tutti i giocatori europei, FIFA 11. Al terzo posto il soldato Alcatraz in una New York futura, nella quale si va diffondendo un virus alieno e mortale, Crysis 2. Sarà perché molti bambini sono stati in vacanza, ma i Pokémon in versione bianca e nera restano rispettivamente al secondo e primo posto della classifica dei giochi per console più venduti della settimana. Al prossimo sabato, un saluto da Stefano Gallarini.